Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siete sempre sintonizzati sui 96.25 e 94.700 a seconda di come vi siete collegate le frequenze. La mia voce ha assunto dei toni abbastanza strani, ma d'altronde siamo nel 2011, dunque cambiano anche le strutture dei microfoni di questa splendida radio che ogni volta ci dà delle sorprese, ma d'altronde il 2011 forse inizia con gli auspici. Ti farò parlare bene tra un po'. Ho capito, anch'io. Vabbè, comunque adesso siamo arrivati purtroppo così, un po' trafelati nell'umidità, ci siamo persi un cartello stradale, abbiamo perso la strada per la radio, dunque siamo arrivati un po' di corsa in questa splendida location che rappresenta forse anche il futuro di una certa sinistra, e noi riprendiamo come 451 frammenti sonori, che rientra dunque nella prima puntata del 2011. In realtà è una delle tante puntate della stagione 2010-2011, il campionato, no? Sai che fanno 2009-2010. Lo facciamo anche noi il campionato. Tu c'è proprio, io sono sì, in cantina, bene. Tu sei proprio forse nel sottosuolo, tipo sai i rifugi antiatomici, quelli sotto, insomma, vabbè, comunque metteremo a posto la situazione. Un saluto chiaramente da Max Macchia e da Elisio Scarpa. Beh, cosa fai? Fai tu? Ah, no, l'hai sistemato. Caro mio. Sei un genio dell'apocalisse. No, adesso io lo sistemo. Adesso parlo solo io perché adesso parli solo tu. Ovviamente buon anno a tutti gli ascoltatori e a tutti i compagni, e speriamo, insomma. Compagni, ma che termini sono? Ma insomma, sono vecchi, insomma, un po' di serietà. Comunque buon 14 dicembre 2010. Ah, ho capito, giusto, bravo, festeggiato, non il 31 ma il 14. Hai ragione. Va bene, ovviamente 451 riparte. Ricordiamo anche per coloro se volessero mettersi in contatto con noi attraverso il nostro blog, sempre 451 frammentisonori.noblogs.org, dove potrete trovare anche le ultime puntate, finalmente le abbiamo caricate tutte, e prossimamente anche questa puntata tra 4-5 giorni, la puntata che stiamo per trasmettere. Prometti. Poi non mantengo. Ma è come Mina, parole, insomma. Vabbè, cercheremo di arrivare ai fatti in maniera più fatta. E agli sfatti. E anche agli quelli sfatti, ce ne sono tanti, quindi non è difficile. Bravo. Allora, andiamo dentro l'argomento di stasera. Ti posso fare una cosettina? Nel frattempo io parlo, guarda, e ti faccio un giochino che ti piacerà moltissimo. Adesso prova. Ecco, bravo. Era questo il giochino. Dunque abbiamo fatto una cagata mostruosa. Va bene, a posto. Intanto non ci vedono, capito? Quindi non ci vedono lottare con microfoni, cuffie. Hai ragione. E faccende varie. Allora, velocissimamente, perché abbiamo già perso un po' di tempo nell'introduzione, andiamo sul tema della serata di apertura del 2011. Il gioco è un po' un gioco di parole che ricorda un brano di uno splendido album degli Area, Gli dei se ne vanno e gli arrabbiati restano, del 1978, con un brano che si titolava Festa Farina Forca. Noi abbiamo giocato un po' su questa forma linguistica e su questi termini, abbiamo giocato costruendo la puntata di stasera con SSF, cioè suono, silenzio, forma, e lavoreremo dunque dentro i contesti musicali connessi al silenzio, al suono e alle forme strutturate e non strutturate dentro vari brani che si dipanano negli anni zero. Ed apriamo subito in maniera dirompente con uno dei grandi teorici, e non solo teorici ma anche fautori e costruttori del silenzio, dell'estetica dell'assenza, che anni or sono abbiamo inserito in varie puntate di 451, il grande John Wall, con l'ultimo lavoro, un mini uscito nel 2007, Chiffon, dove esprime ancora appunto questo discorso connesso all'estetica dell'assenza, silenzio dentro la struttura suono e dentro appunto una forma musicale che esprime e che esprimeranno anche altri autori attraverso varie diramazioni. Direi di partire subito velocemente con John Wall. Sto zitto, promesso. E siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato questo primo brano di apertura del 2011, potrebbe essere anche, diciamo, quasi cosa potremmo dire? Segno dei time, segno dei tempi, non lo so. Apriamo col silenzio, apriamo con appunto questo discorso portato avanti da John Wall come da altri autori, in primo luogo un altro grande di questa scena è Bernard Gunther, ma poi troveremo un altro tra poco che sì. presenterà il buon Max, un altro grande di questo filone che è legato appunto all'estetica dell'assenza, un silenzio che diventa fonte primaria di composizione musicale, di suono, dunque una dicotomia che poi in realtà non è una dicotomia ma sta dentro il discorso musicale. E John Wall in questo lavoro, Chiffon appunto, che è l'ultimo lavoro ufficiale uscito oltretutto per l'Atheplasm, elabora un concetto, no, che sicuramente rappresenta perfettamente la sua esperienza di musicista, che in realtà è un musicista autodidatta, non è un vero e proprio compositore, anche se poi il termine è abbastanza opinabile. Composizione poi non è soltanto attraverso delle formazioni, delle conoscenze musicali o strutturali che possono venire dal conservatorio o dalla conoscenza delle note, della struttura musicale occidentale, ma l'abbiamo verificato già negli anni 90 col pullulare di cosiddetti non musicisti che poi diventavano appunto compositori attraverso l'uso della tecnologia digitale. Lui appunto è uno di questi musicista che oltretutto non compone in prima persona le tracce sonore che lui tratta, in realtà appunto fa un vero e proprio collage, qualcuno lo definisce sound collage, ma in realtà poi il discorso è anche più complesso, l'utilizzazione di fonti sonore esterne non prodotte direttamente da lui che poi lui manipola, costruisce e rimodella costruendo una vera e propria orchestra virtuale attraverso appunto le composizioni altrui, la definizione in inglese è plunderphonic, che poi è utilizzata molto nella descrizione degli autori che inseriremo stasera in questo percorso musicale. E in questo ultimo lavoro che abbiamo appena ascoltato denotano sicuramente gli influssi connessi anche alla contemporanea, questo piano trattato dove appunto i silenzi e le modulazioni di note si intervallano e si sovrappongono per poi svilupparsi invece su dei suoni quasi micro che emergono appunto nel flusso del silenzio utilizzato da John Wall. John Wall appunto compositore inglese, autodidatta, e da John Wall arriviamo a un altro grande che faceva parte appunto dei nomi importanti di questa scena musicale. Sì, Michael J. Schumacher o Michael, visto che poi è tedesco, anche se l'artista poi di fatto vive da molti anni a New York, e suono silenzio forma, e con Michael J. Schumacher, lo facciamo all'americana visto che poi di fatto è artista newyorkese a tutto tondo, si va proprio a prendere a pieno sia il suono nel senso di trattamento del suono come architettura sonora, come strutturazione appunto legata alla sperimentazione proprio del suono, dei suoni, delle possibilità interattive che hanno queste, quindi con le macchine, ma anche dei suoni acustici, elettroacustici dentro delle composizioni che comunque hanno una forma piuttosto sicura, piuttosto ferma, potremmo dire, seppur sembrano anche una cosa abbastanza chiara questa sera, seppur prima di Eliseo parlava di deformazione, cos'è che usavi, informale, non ricordo bene i termini, comunque è sicuramente una cosa come primo aspetto sonoro hanno questo, però come invece strutturazione, nel vero senso della parola, invece hanno una forma decisamente decisa appunto e sicura, scusate il giochino tra decisamente decisa, ma d'altronde con questo uomo bellissimo anche tu a fianco, mi confondo, ti emozioni, ti emozioni moltissimo, sai. E quindi con Michael J. Schumacher e con la sua story si va anche a trattare quell'idea, quell'ideazione legata al silenzio che, come dicevamo prima, non è semplice paradosso musicale. Tutte le musiche sono fatte di silenzio e rumore, anche il più semplice brano pop rock è fatto su questo intervallo tra silenzio e suono. Chiaramente gli artisti che questa sera mettiamo hanno come prevalenza strutturale, formale, quindi un suono che va a ricercare il silenzio. Potremmo parlare di musiche silenti, volendo, insomma, quel tipo di esperimento, anche se poi sentirete anche sorte di rumorismo, concretismo e quant'altro che stanno appunto dentro queste forme decisamente non decise come prima, ma decisamente ferme, decisamente scritte, si potrebbe dire. Anche lo stesso John Wall, che con la sua prandofonia fa delle composizioni ex novo veramente eccezionali. Michael J. Schumacher, quindi, da Stories, un viaggio dentro un trattamento tra pianoforte, rumore, effetti random del piano trattato dentro il rumore e dentro il computer, e tanto silenzio che ammorba in maniera splendida e assolutamente affascinante il mondo di Schumacher. Thank you. Thank you. Que você Beh, veramente notevole il pezzo, il brano di Michael J. Schumacher, e la dice lunga sul trattamento random dei suoni, quasi un linguaggio inventato, anzi senza quasi, un linguaggio assolutamente inventato appunto da sillabazioni utilizzate in maniera casuale, appunto random, e anche sonorità che vanno a inseguirsi, quasi a cercare una sorta di implosione che poi avviene in questi momenti di silenzio cercato e poi di rinnovamento ulteriore attraverso appunto questo procedimento che non ha più controllo umano e semplicemente e meravigliosamente anche a questo punto gestito dalla macchina computer, e genera appunto queste musiche che non hanno più confine, hanno una forma molto matematica, appunto il random è comunque un sistema utilizzato appunto dalla macchina, randomizza ma calcola quello che a noi sembra casuale. Questa è la cosa eccezionale anche di la composizione, la forma di Michael J. Schumacher per questo suo pezzo non titolato. Abbiamo anche ascoltato un primissimo pezzo per qualche minuto di Stories, capolavoro del 2004, uno dei dischi che non abbiamo incluso nelle puntate dedicate agli anni zero, ma sicuramente insomma è da includere tra i gioielli della scorsa decade, visto che poi adesso ci siamo veramente, siamo nel 2011, quindi siamo veramente entrati nel secondo decennio del secondo millennio. Ti stai perdendo. E del ventunesimo secolo. Beh, ma come? Bisogna dire queste cose. Mi perdo dentro il tempo. Dentro, bravo, bravo. Dentro il flusso temporale creato da Michael J. Schumacher e anche da te, chiaramente. Beh, chiaramente, sono qua. La tua voce sua dentro, il tuo sguardo che non posso vedere. Beh. Che cosa? Così. Lo sguardo gracchiante. Sì. Vabbè, andiamo oltre che il tempo purtroppo c'è tiranno. Velocissimamente presentiamo invece una stasera formazione. Sei proprio con la fretta addosso. 2011 no, ti ha messo fretta. Corro, no, corro, i tempi, se no tranciamo il grande pezzi. Progetto musicale che andiamo a proporre. Si tratta di Charity Chan, una formazione assolutamente nuova che si staglia sulla scena dell'avanguardia, rientra nel discorso suono silenzio forma per le loro composizioni che si muovono sicuramente tra contemporanee, in primo luogo piani preparati di memoria cageana molto molto netti e utilizzazione sia di strumenti analogici e acustici sia di elementi elettronici. E in realtà questa formazione è un trio prodotta dall'etichetta Ambiences Magnetics canadese, molto importante sulla scena musicale. Lo so che ti sei messa a ridere per il francese, Magnetico, vabbè, che devo fare solito francesismo, francesismo, chiamiamolo così. E ci andiamo a presentare l'ultimo lavoro uscito nel 2009, Somewhere the Sea and Salt. Andiamo ad ascoltare una traccia, l'altra traccia la andremo ad ascoltare in riapertura della seconda parte della trasmissione. Alla fine di questo brano scatterà il GR di Radio Popolare Network. Buon ascolto.